Signor Presidente, signore e signori, Josip Wilfan iniziò la sua attività politica nel 1906, quando fu eletto, ad appena 28 anni, segretario della società Edinost, Unione, che riuniva nelle sue diverse articolazioni economiche, culturali e politiche gli sloveni di Trieste. Di formazione egli era un giurista, si era laureato all'Università di Vienna all'inizio del secolo e aveva intrapreso la carriera di avvocato, impegnandosi come praticante a Pola e poi a Trieste presso gli studi di alcuni affermati professionisti. Cresciuto in una famiglia che per legami di parentela e per ragioni di lavoro del padre visse non solo nel litorale ma anche in Carniola e in Dalmazia, egli fin dalla giovinezza fu poliglotta, parlando scioltamente quattro lingue: lo sloveno, il serbo croato, l'italiano e il tedesco. Era dunque un tipico esponente dell'intelligenza slava della monarchia asburgica, cresciuto in una realtà socio-politica in cui, al di là delle sue strutture, almeno una cosa sembrava superiore ad ogni dubbio: la certezza del diritto. Uno degli episodi chiave della sua attività precedente la Prima Guerra Mondiale è legata proprio a questo carattere della civiltà asburgica. Esso ebbe luogo nel dicembre del 1910, quando scoppiò a Trieste il cosiddetto affare del censimento, in una situazione in cui la conflittualità nazionale nel porto adriatico era già molto vivace, il censimento fu visto ovviamente come un'occasione importante per verificare la struttura etnica della città e del suo territorio. Il questionario, predisposto dalle autorità, era peraltro piuttosto ambiguo, perché chiedeva al singolo cittadino di dichiarare non già la sua nazionalità, ma piuttosto la lingua d'uso. Si trattava, come evidente, di una domanda trappola soggetta all'interpretazione di chi censiva, e così effettivamente manipolata dalla burocrazia municipale. Essendo questa, a causa delle leggi, della legge elettorale vigente a Trieste, dominata dalla grossa borghesia irredentista, successe che le risposte di persone di nazionalità slovena impiegate in ambiente italiano fossero cambiate d'ufficio, con la scusa che la loro lingua d'uso non poteva essere lo sloveno. Contro questo modo disinvolto di fare, si erse a nome dell'Edinost il Wilfan, con una protesta così ben formulata da ottenere dalle autorità statali la revisione del censimento. I risultati furono incoraggianti, poiché da essa risultò che gli sloveni a Trieste erano quasi 60.000 e non 37.000, quanti ne avevano contati le autorità cittadine. Si trattò di una vittoria non solo dell'Edinost, ma di un successo personale di Wilfan, che ne uscì confermato nella sua fiducia nello Stato di diritto. Già in quel periodo, in cui era ancora lecito immaginare una Trieste inserita nel suo hinterland sloveno, Egli era dell'avviso che il rapporto fra maggioranza e minoranza poteva essere regolato in modo equo e civile, con il riconoscimento a quest'ultima della sua individualità culturale e politica. Wilfan non negava il carattere preminentemente italiano di Trieste, ma contestava agli irredentisti di considerarla come loro dominio esclusivo, senza riguardi per i diritti dell'altro elemento autoctono, cioè degli sloveni. Sul finire della guerra, quando fu evidente che l'inevitabile sfacelo della monarchia asburgica avrebbe reso attuale il problema della frontiera fra Italia e Slavia, Wilfan partecipò naturalmente alle discussioni che si accesero a proposito, sostenendo che Trieste, a causa della sua posizione geografica, avrebbe dovuto far parte del futuro Stato jugoslavo, il quale, peraltro, avrebbe dovuto garantire alla minoranza italiana ogni diritto. Egli continuò a sostenere questa tesi anche dopo il 13 novembre 1918, quando la città e il litorale vennero occupati dall'esercito italiano e rivendicati dal governo di Roma in base al patto di Londra del 1915. Nei mesi successivi, mentre alla conferenza di pace di Parigi divampava una violenta diatriba diplomatica fra i rappresentanti italiani e jugoslavi per le frontiere, gli sloveni del territorio conteso, che ormai aveva un nuovo nome, Venezia Giulia, puntavano su un plebiscito, convinti di avervi, insieme con i croati, una seppur esigua maggioranza. Si trattò naturalmente di speranze prive di fondamento che non prendevano in debita considerazione il disuguale rapporto di forze fra l'Italia e il neonato regno di serbi, croati e sloveni. Speranze manifestate peraltro in maniera vaga, senza vero impegno, nella convinzione che il contenzioso dovesse venire risolto dai fattori competenti, cioè dai governi di Roma e di Belgrado. Così, quando la frontiera fra l'Italia e il regno dei serbi, croati e sloveni venne tracciata con il Trattato di Rapallo nel novembre del 20, in maniera manifestamente sfavorevole agli sloveni, Wilfan e gli altri leader del gruppo etnico rimasti in Italia accettarono tale soluzione senza proteste. Il triestino si limitò ad osservare che Rapallo aveva risolto il conflitto adriatico, non però il problema adriatico. D'ora in poi sarebbe stato necessario impegnarsi per la conservazione dell'identità nazionale degli sloveni e dei croati rimasti in Italia, in tutto erano circa 400.000 persone, nella speranza che la normalizzazione dei rapporti fra italiani e slavi e la maturazione delle coscienze avrebbe portato, in un futuro non meglio definito, ad una più equa linea divisoria fra i due stati. Si trattava evidentemente di un discorso avulso dalla realtà contingente, considerata la difficile situazione in cui si trovavano gli slavi nella Venezia Giulia. Fin dall'inizio le autorità d'occupazione presero infatti nei loro confronti un atteggiamento sospettoso, se non ostile, cercando di emarginare e di rendere innocui gli esponenti dell'intelligenza e lasciando nel contempo ampia libertà di azione alle forze nazionaliste e fasciste che a Trieste trovavano, già nel 19, un ambiente quanto mai congeniale. Fino a quel punto queste forze potessero agire indisturbate nella città divenne evidente nel giugno del 1920, quando squadre fasciste assalirono il cosiddetto Hotel Balkan, cioè la casa nazionale slovena, orgogliosamente eretta nel centro della città, e la diedero alle fiamme. Wilfan, che quel giorno fatale fu assente da Trieste, perse nell'incendio del palazzo in cui abitava e aveva il suo studio non solo i suoi effetti personali, ma anche tutto l'archivio delle Dinost. Questo crimine, che rimase evidentemente impunito, non intaccò però la sua fiducia nella possibilità di un dialogo rispettoso ma franco con le autorità statali. Eletto nel maggio del 21 con altri 4 sloveni al Parlamento di Roma, Wilfan riprese per la prima volta la parola come loro portavoce il 21 giugno con un discorso programmatico in cui sottolineò il diritto degli sloveni e dei croati, annessi all'Italia contro la loro volontà, di essere trattati come titolari di diritti collettivi, che lo Stato avrebbe dovuto rispettare e garantire. In cambio, gli sloveni, per bocca di Wilfan, pur non rinunciando alle loro aspirazioni irredentistiche, si impegnavano ad essere cittadini leali, collaborando, per dirla con l'oratore, nei limiti delle proprie forze e della propria posizione particolare per il conseguimento di ideali comuni di umanità, di cultura, di progresso morale e materiale. Questo intervento, in cui Wilfan non perse l'occasione per denunciare i soprusi sofferti dalla popolazione slovena durante i mesi dell'occupazione militare, non piacque affatto ai parlamentari italiani, soprattutto a quelli di destra, ma neppure al presidente del Consiglio Giolitti, che accusò l'oratore di vilipendio delle forze armate. A questo punto, un collega di Wilfan, il sacerdote goriziano Virgili Scek, cercò di calmare le acque con un discorso più diplomatico, parlando di minoranza come di un ponte che avrebbe dovuto congiungere i due popoli e i due stati. Wilfan avvertì questo intervento come una pugnalata alle spalle e a lungo non riuscì a perdonarlo al parlamentare goriziano. Il fatto è che tra gli sloveni annessi all'Italia esistevano due anime, quella liberale triestina e quella cattolica goriziana, che nonostante la situazione di emergenza in cui il gruppo etnico venne a trovarsi, non riuscirono a convivere nello stesso movimento politico. Esso infatti si scisse già l'anno successivo in due tronconi, delimitati territorialmente e segnati da differenze di carattere personale fra i diversi leader, ma anche da dissensi ideologici e da quelli relativi alla tattica da seguire nei rapporti con lo Stato. Mentre i goriziani, più pragmatici, sostenevano l'opportunità di un dialogo, anzi di una collaborazione con le forze politiche italiane, in primo luogo con i popolari di Don Sturzo, i triestini erano dell'avviso che la minoranza non avrebbe dovuto inserirsi nel gioco partitico italiano, ma avrebbe dovuto piuttosto far parte a sé. individuando come suo interlocutore lo Stato. Si trattò, in ambedue i casi, di ragionamenti avulsi da qualsiasi realtà, poiché né le autorità statali né le diverse forze politiche, a parte quelle di sinistra, erano interessate a considerare la minoranza come un soggetto dotato di specifici diritti. A questo proposito è significativa l'opinione espressa in un colloquio con Wilfan nell'aprile del 21 dal ministro dell'istruzione pubblica Avile, membro del Partito Popolare. Siete condannati ad una cultura superiore, non al male dunque, ma al bene, e perciò arrendetevi. A questo modo di pensare, Wilfan opponeva a sua volta un senso di superiorità nei confronti del mondo italiano, considerandolo inferiore a quello asburgico da cui gli sloveni erano stati plasmati. La sua mentalità austriaca gli fu del resto spesso rinfacciata dai fascisti, che mal sopportavano l'insistenza e la tenacia con la quale continuava, al Parlamento e fuori, a sostenere le tesi, le ragioni della minoranza, spesso vittima di misure prese in maniera del tutto arbitraria a livello locale. Nel marzo del 22 i magistrati di Trieste decisero, per esempio, di bandire l'uso dello sloveno dai tribunali, cosa che spinse il Wilfan ad elevare vibrate per quanto inutili proteste. Egli si illuse, dopo l'avvento di Mussolini al potere, di trovare presso un forte governo centrale quella difesa che le autorità locali non erano in grado o non erano interessate ad assicurare. Il 17 novembre del 1922 presentò al Parlamento una mozione in cui chiedeva al governo di rispettare le proprie leggi e di pretendere il loro rispetto, sottolineando come la politica finora seguita fosse contraria agli interessi dello Stato. Noi, disse, non diventeremo buoni cittadini con sistemi simili, con incendi, maltrattamenti e olio di ricino. Mussolini, che commentò queste parole con una delle sue frasi lapidarie sul monte nevoso siamo e lì resteremo, non sembrò peraltro insensibile all'appello dell'uomo politico triestino. Egli lo ricevette qualche giorno più tardi a colloquio, che Wilfan in un momento di ottimismo definì storico, poiché gli parve di cogliere nelle parole del Presidente del Consiglio la promessa di un trattamento più equo. In quell'occasione il triestino presentò in maniera concisa il suo pensiero sul modo in cui la minoranza avrebbe dovuto essere trattata, chiedendo il rispetto dei suoi diritti linguistici, culturali ed associativi, il permesso di rimpatrio per coloro che erano stati costretti all'emigrazione, e riassumendo il tutto con la frase latina «Nihil de nobis sine nobis». A questa visione di una minoranza soggetto e interlocutore paritario dello Stato, Mussolini oppose un'altra più riduttiva, che però nella situazione gravissima in cui gli sloveni della Venezia Giulia si trovavano non parve a Wilfan del tutto priva di prospettive. Il Presidente del Consiglio sostenne infatti che l'assimilazione era inevitabile, rilevando come la nostra cultura trimillenaria aveva vinto tutti, meno che gli ebrei, che per questo avevano patito per 2000 anni. Ma proprio perché si sentiva forte, a suo dire, l'Italia non aveva paura degli slavi e non desiderava la loro assimilazione violenta, anche per ragioni di politica estera. Nonostante queste mezze promesse, le cose nella Venezia Giulia in verità non cambiarono. Wilfan, amareggiato e deluso, assunse di conseguenza nei confronti del regime fascista un atteggiamento sempre più ostile anche in Parlamento. Quando verso la metà del 23 vi si discusse la legge Acerbo, che avrebbe dovuto riformare il sistema elettorale in senso maggioritario per favorire il partito fascista, egli presentò una mozione che prevedeva garanzie per le minoranze affinché non rimanessero senza rappresentanza parlamentare. Ma che cosa pensasse del regime risulta evidente dalla sua frase, coraggiosa per i tempi, in cui affermò che non era possibile attendersi elezioni prive di violenza da un governo che con la violenza aveva raggiunto il potere e con la violenza si manteneva al potere. Questo atteggiamento apertamente critico nei confronti di Mussolini non gli consigliò, peraltro, nel momento della maggiore crisi del regime, quando scoppiò nel giugno del 1924 il caso Matteotti, di seguire le forze dell'opposizione sul Aventino. Matteotti, per i nostri colleghi che forse non sono tanto, a conoscenza della storia italiana, era un deputato socialista che è stato appunto rapito e anche ammazzato dai fascisti appunto in questo periodo. Wilfan appunto non seguì le forze dell'opposizione sull'Aventino, insieme con il collega Goriziano Bessedniak e i due deputati della minoranza tedesca, giudicò opportuno di rimanere in Parlamento, soprattutto perché considerava la crisi una questione italiana, estranea alla minoranza, ma anche per protesta contro i partiti dell'opposizione che non avevano considerato necessario informare della mossa a cui si accingevano i colleghi alloglotti, come allora si diceva. E poi c'erano anche delle ragioni squisitamente tattiche. A noi, semplici minoranze, disse Wilfan, spetta il ruolo dell'asino che può permettersi di dare al leone un calcio quando questi è moribondo. Anzi, a suo dire, era meglio attendere che fosse morto ben bene. Questa tattica opportunistica non gli impedì, tuttavia, di echeggiare Matteotti proprio nei giorni della sua scomparsa nelle accuse contro il regime, ripetendo la tesi che nel nome della civiltà, ma anche per il suo buon nome internazionale, l'Italia avrebbe dovuto assumere nei confronti delle minoranze un atteggiamento più equo. In una risoluzione presentata il 13 giugno, Wilfan invitò il governo di adottare a favore della minoranza slava e tedesca quelle misure che l'Unione Internazionale per la Società delle Nazioni e l'Unione Interparlamentare in due incontri a Praga nel 22 e a Copenaghen nel 23 avevano sollecitato di prendere quei paesi europei che non erano impegnati come l'Italia in tal senso da trattati di carattere internazionale. La risoluzione non fu mai votata perché il presidente della Camera non la presentò all'approvazione dei deputati, né il Wilfan in quel momento di confusione e di tensione considerò opportuno insistere. Essa però è interessante perché dimostra come il suo pensiero sul problema delle minoranze fosse ormai improntato dalla convinzione che si trattava di una questione di civiltà che non riguardava soltanto l'Italia, ma l'Europa intera. Andava dunque discusso a livello e risolto a livello internazionale. Nel 25 egli si impegnò in maniera così convinta nella convocazione di un congresso delle minoranze nazionali riunitosi a Ginevra da essere eletto presidente del suo comitato esecutivo. Ne rimase a capo per ben 12 anni, contribuendo con la sua indefessa attività pubblicistica e le sue capacità organizzative non solo a impostare ogni anno il convegno del congresso, ma anche ad elaborare un nucleo di norme a tutela delle minoranze che andarono ad arricchire il pensiero giuridico europeo. Egli partiva dalla concezione di matrice romantica, secondo la quale la cultura europea era espressione polifonica dei suoi diversi popoli, che dovevano essere in grado, al di là degli stati in cui vivevano e delle frontiere da cui erano divisi, di esprimersi in maniera completa e libera. La sua concezione della comunità nazionale era estremamente ampia, abbracciava tutte le parti del corpo etnico, anche quelle della diaspora, e prevedeva delle strutture organizzative atte a promuoverne la crescita culturale, economica e politica. Egli predicava la lealtà nei confronti dello Stato in cui le singole minoranze vivevano, chiedeva però anche allo Stato di rispettare le minoranze, auspicando la costituzione di un organismo internazionale capace di tenere d'occhio i singoli governi per richiamarli all'occorrenza all'ordine e creare così in Europa un'atmosfera di mutua confidenza e di vera pace. La sua riflessione sui diritti delle minoranze era evidentemente condizionata dal modo in cui tali diritti venivano calpestati in Italia, dove la situazione conobbe, man mano che il regime si irrobustiva, un peggioramento sempre più drammatico. Le autorità cominciarono a italianizzare i cognomi della gente, a chiudere le scuole, a sciogliere le associazioni di cultura, a proibire i giornali, giungendo nel 27 a mettere fuori legge la stessa società Edinost. In questa situazione di estrema tensione, in cui lo stesso Wilfan fu oggetto di un tentativo di attentato e si trovò per ben due volte dietro le sbarre, non c'era più possibilità per un'azione legale in Italia. Il politico triestino ebbe un ultimo tempestoso colloquio con Mussolini il 25 settembre del 28, qualche giorno prima di emigrare definitivamente a Vienna dove continuò la sua azione nell'ambito del congresso delle minoranze. Nonostante tutto, egli continuava ad avere fiducia nelle forze della ragione, puntando sulla creazione in Europa di un'opinione pubblica capace di influire sui singoli governi e condizionarne la politica anche rispetto alle minoranze. Nell'ambiente sloveno della Venezia Giulia era però il Wilfan già da tempo contestato dai giovani, convinti che alla violenza fascista bisognava rispondere con la violenza. Essi si organizzarono verso la fine degli anni venti in un gruppo clandestino che si impegnò in atti terroristici, per lo più di carattere manifestativo, contro il regime. La loro attività venne tuttavia troncata dalla polizia segreta nella primavera del 30. Nel settembre successivo fu organizzato a Trieste, dinanzi al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, uno spettacolare processo che si concluse, tra l'altro, anche con 4 condanne a morte. I giovani condannati vennero fucilati alla schiena come traditori il 6 settembre a Basovizza, non lontano dalla frontiera italo-jugoslava, a mo' di ammonimento a tutta la popolazione slava della Venezia Giulia. Abbiamo, fu il commento di Mussolini, altro piombo per altre schiene. In quei giorni Wilfan e il suo collega goriziano Besedniak si trovavano a Ginevra, dove era in corso un convegno delle minoranze europee. Wilfan, pur avendo avuto qualche sporadico contatto con i gruppi di resistenza armata, non aveva mai considerato che la violenza fosse il mezzo più adatto per risolvere i problemi della minoranza, considerandola semmai un espediente per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica su situazioni di particolare disagio. Nel memorandum che preparò in quell'occasione, insieme al Besedniak, rimase fedele a tale convinzione, cercando di spiegare come mai gli sloveni, che nel passato non erano mai ricorsi a mezzi violenti, fossero passati alla lotta armata. Egli richiamò l'attenzione dei suoi lettori non solo sull'esasperazione di un popolo che era stato oggetto di una oppressione mai vista, ma anche sul cattivo esempio fascista che da un decennio faceva ricorso in modo sistematico della violenza. Un'atmosfera avvelenata in cui è scomparso il limite tra giustizia e ingiustizia, tra azione meritoria e delitto, domina già da 10 anni nella Venezia Giulia. È da meravigliarsi dunque se la tesi sulla legittimità del delitto per ragioni etniche abbia trovato un terreno fertile anche fra singoli individui della popolazione jugoslava. Come risulta da queste parole, Wilfan era rimasto fedele, nonostante tutto, alla sua visione legalitaria della lotta in difesa delle minoranze. Convinto che essa avrebbe potuto essere efficace solo se in tutta l'Europa si fosse affermata la consapevolezza del problema, egli continuò a lavorare fino al 38 nell'ambito del Congresso delle Minoranze, sviluppando il suo ragionamento in articoli, interventi e conferenze, che però in una situazione in cui gli stati totalitari violavano sistematicamente i più elementari diritti umani diventava sempre più astratto o, come egli stesso avrebbe detto, accademico. figlio di un'altra era in cui il diritto e l'ordine legale non erano parole prive di significato, egli non riuscì ad adattarsi alla barbarie contemporanea e si chiuse sempre di più nel suo mondo privato, isolandosi nei suoi studi, nella convinzione che bisognava puntare su tempi lunghi e su una evoluzione progressiva della comunità europea. Il suo pensiero sulla dignità dell'essere umano, anche in quanto membro di una famiglia etnico-linguistica, dignità che trascende lo Stato, sulla necessità di una cultura favorevole alla tutela delle minoranze, sull'opportunità di formulare un diritto delle minoranze e di costituire un organismo internazionale in grado di controllarne l'applicazione in tutto il continente europeo, può essere in questo senso, a mio avviso, ancora assai attuale. Grazie.